fanno in tanti, cioè è diventata un... non voglio dire il termine moda, però sì, da un lato sì, però cioè, c'è anche il bisogno di esprimere qualcosa, magari un individuo ha bisogno di esprimere un qualcosa e se lo fa, tatuandosi, piuttosto che una ricorrenza, un evento speciale, la nascita di un figlio, la morte di una persona cara. Il bisogno di sentire vicine ancora delle persone che non ci sono più, magari ti fanno un tatuaggio in ricordo di, in memoria di una persona cara. Tanti lo fanno partendo da quest'idea, da questo desiderio. Che tu puoi dire sì, mi tengo la foto sul comodino o mi tengo un maglione, però è carino, cioè io la vedo una cosa molto forte e mi piace anche ascoltare le storie delle persone, quindi trovare il disegno che si adatta più alla storia che mi raccontano piuttosto che all'esperienza che hanno avuto.